Allora, 20 e 27, torniamo in diretta. Questi erano gli HCN con Identity. Avevamo provato a mettere questa traccia perché dovevamo fare un'intervista e dovevamo presentare il libro Milano Emotiva e rilanciare l'iniziativa Grane che si doveva tenere tra il 14 che si terrà, scusate, tra il 14 e il 15 maggio al Boccaccio, ma purtroppo il compagno con cui ci eravamo organizzati per la chiamata non mi ha risposto e quindi passiamo all'argomentazione successiva. Diamo come al solito un paio di aggiornamenti dal carcere in questa settimana, delle notizie che arrivano purtroppo dai mass media di regime. Allora, partiamo da Reggio Calabria, dalla casa circondariale di San Pietro, dove a quanto pare tre secondini sono indagati dalla procura locale per aver pestato un detenuto. Da un detenuto pestato passiamo a un secondino aggredito, invece a Lucciardone, a Palermo, a quanto pare un secondino è stato pestato ed è andato all'ospedale con 10 giorni di prognosi per aver intimato ad un detenuto di indossare la mascherina. Evidentemente il recluso non ha accettato questa richiesta. E niente, quindi alla fine il secondino è finito all'ospedale al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. Rimaniamo sempre in Sicilia, andiamo a Trapani, dove ci sono stati dei sequestri di telefonini che venivano spediti con i droni. Abbiamo parlato nelle scorse settimane invece di evasioni più e più volte. Scusate, mi sta chiamando ora in questo momento il compagno, quindi perdonatevi. Abbiamo parlato di evasioni più e più volte, soprattutto delle evasioni di Vercelli. Abbiamo detto settimana scorsa che il secondo ragazzo che era evaso a Capodanno dal carcere di Vercelli era stato arrestato. In questi giorni è stato arrestato anche il fratello del ragazzo albanese che è stato beccato, che era anche scappato in Olanda. È stato arrestato come complice. Sempre parlando di evasioni, c'è stata un'altra evasione fresca dal carcere di Trieste. In due hanno scavalcato le mura e sono riusciti a scappare, però purtroppo sono stati ripresi nella stessa giornata, più o meno sono stati ripresi al confine sloveno sull'altipiano carsico. Torniamo alle rivolte del 2020, in particolare al pestaggio che c'è stato a Santa Maria Capua Vetere nel maggio 2020. Per quanto riguarda l'omicidio di Hakimi Lamine, che è un omicidio di Stato, anche se poi è stato fatto passare come un suicidio, era stato richiesto erano stati richiesti carceri domiciliari per 21 agenti penitenziari per omicidio colposo, quindi per aver indotto comunque il ragazzo al suicidio. E niente, a quanto pare il GIP ha rifiutato l'arresto di queste persone. Ora leggiamo un comunicato del carcere di San Vittore. Scusate, leggiamo un comunicato per quanto riguarda il presidio che si terrà domani al carcere di San Vittore. Ricordiamo, ne abbiamo parlato settimana scorsa con una compagna. Un secondo solo che ritrovo il file, perdonatemi che sono andato un po' in ballo perché nel frattempo dovevo rifiutare il compagno la chiamata. Allora, domani c'è una chiamata appunto l'8 marzo sotto il carcere di San Vittore alle ore 6 a Piazzale Aquileia a Milano. Settimana scorsa abbiamo presentato il presidio, ora leggiamo il comunicato di chiamata. 2 anni fa, la mattina del 9 marzo, eravamo in tanti sotto San Vittore. Dopo una notte passata nelle vie intorno al carcere di Opera, dove era appena scoppiata la rivolta, causata in primo luogo dalla sospensione dei colloqui, era arrivata la notizia che anche a San Vittore stava succedendo qualcosa. 2 sezioni erano state messe a fuoco e alcuni prigionieri erano saliti sui tetti del 3° e 5° raggio. Non si vedeva una scena simile dagli anni 70. La diffusione del coronavirus era partita e, come immediata misura, il carcere era stato chiuso a tutte le visite, non certo alle guardie che entravano e uscivano senza alcuna protezione. Coraggiosamente, i prigionieri avevano preso la decisione di ribellarsi. Fuori la propaganda istigava la paura del contagio, mentre dentro nessuna salvaguardia era presa in considerazione per loro. La solidarietà all'esterno, dall'esterno si faceva sentire e gli scambi con chi era sul tetto toccarono momenti intensi. Familiari e amici presenti riuscivano a far arrivare messaggi direttamente ai loro cari. Le rivolte interessarono tante altre carceri e non si fermarono a quei primi giorni, così come le proteste e le rivendicazioni portate avanti dalle prigionieri del carcere di Trieste, Torino e Vigevano. Le condizioni nelle carceri erano difficili da sopportare da prima, da sempre. Sovraffollamento intollerabile, cibo scarso, prezzi inammissibili per i prodotti da acquistare, prestazioni sanitarie a dir poco inadeguate, servizi igienici quasi ovunque sporchi e malconci, educatori spesso assenti e con il potere di condizionare le decisioni, con i loro pareri arbitrari, su permessi o misure alternative, posta rallentata o bloccata, pacchi e soldi difficili da recapitare, con regole sempre diverse e quindi complicate da seguire. Il lavoro interno disponibile per pochissimi, con una paga irrisoria, le attività come scuola o corsi non sempre assicurate, abusi delle guardie, squadrette punitive, richiami, ammonizioni, isolamento, trasferimenti per chi mantiene la testa alta. Violenza delle guardie che poi, durante, nei giorni successivi alle rivolte, abbiamo conosciuto con prigionieri uccisi a Modena, pestaggi con testa e braccia rotte a Opera, a Varese e purtroppo in tante carceri, non quindi solo a Santa Maria Capua Vetere, che ha assurta gli onori delle cronache di regime. La mattanza è avvenuta in modo esteso. Le carceri dovevano tornare alla normalità e al silenzio. Innumerevoli processi contro i presunti rivoltosi con condanne già comminate. Quelli contro le guardie andranno a finire in nulla, come sempre accaduto in passato. Le condizioni dentro le carceri dopo le rivolte e in corso di pandemia sono ovviamente peggiorate. Al 31 dicembre 2021 erano 54.134 i detenuti, con il 32% di stranieri e circa il 30% per violazione della normativa sulle droghe. Per furto rapina sono in carcere in più di 30.000, dati che la dicono lunga sulla composizione di classe all'interno delle carceri italiane. Le difficoltà già esistenti negli ultimi 2 anni si sono accentuate, con colloqui sempre più difficili da ottenere e da svolgere dietro barriere di plexiglass, a 2 metri di distanza e dovendo urlare per farsi sentire. È stato reso obbligatorio il vaccino sia per i familiari sia per i prigionieri e rimane costante preoccupazione che possano essere di nuovo sospesi, come è successo in questa ultima ondata di gennaio. Le telefonate sono concesse con criteri sempre più arbitrari, come per i pacchi e i vaglia. Lo stesso vale per tutte quelle attività interne che rendono meno pesante la quotidianità. Come diceva un prigioniero di Opera, qui si sta solo fra guardie e ladri. La storica scarsa presenza dei medici in questo periodo pandemico diventa più grave. Sono innumerevoli le testimonianze sulla mancanza di cura per le patologie legate al Covid. La sanità in questi luoghi latita con l'epidemia o senza non cambia nulla. Per la società libera non sono all'altezza di garantire delle sane cure. Come possono garantirle a noi qua dentro? Senza le rivolte delle persone recluse, probabilmente oggi tutti noi saremmo di fatto completamente isolati nelle carceri, senza la possibilità di contatto con i nostri cari, con i nostri affetti, persino con i nostri avvocati e le nostre avvocatesse. Per tutti questi motivi rinnoviamo la nostra solidarietà a chi si ribella e a chi lotta, tanto dentro le carceri quanto nel mondo intero. Allora, questo è il comunicato di Olga per il presidio che si terrà domani, lo ricorderemo dopo nelle iniziative. Ora proviamo in extremis a recuperare la chiamata con il compagno per parlare, insomma, delle iniziative di Grane. Vediamo se ci risponde, se no andiamo oltre. Allora, pronto, ciao, ci sei, ci senti? Ci sono, buongiorno mondo. Ok, ciao, siamo in diretta, benvenuto a Cronache di Regime. Buongiorno a tutti. Buonasera. Buongiorno. Ok, va bene, allora, mi hai detto di presentarti come Oz Noz del collettivo Mortazza, giusto? Giusto, okay, tutto giusto. Va bene. Niente, allora, come dicevamo, volevamo parlare, insomma, fare 2 parole su Grane. Se vuoi spiegarci cos'è in realtà Grane, insomma, se vuoi parlarci questa 2 giorni che si terrà al Boccaccio tra il 14 e il 15 maggio. Grane è il gran raduno delle autoproduzioni non eccessivamente serie. La la volontà di riappropriarci del do it yourself nella maniera più pratica possibile, cioè avendo uno spazio o un luogo per poter incontrare tutti i cani sciolti, tutte le persone che hanno voglia di vomitare veleno su delle carte strappate e diffondere il loro pensiero, qualunque esso sia, anche se non sia un pensiero tangibile o reale o soltanto uno sfogo di qualche turba adolescenziale. Il tema che abbiamo deciso di fare è la deriva. La deriva che può essere la mucillagine sulla sabbia o la ripresa dopo un after nei campi e ti accorgi che si sta facendo l'alba. La deriva può essere la qualunque, e in più il tema che cerchiamo di portare è soltanto un là, ma non vogliamo assolutamente che il esso censuri oppure spinga gli artisti che vogliono partecipare a questo festival in una sorta di selezione artistica in questo atto. Vogliamo creare una o due giorni abbastanza, non lo so come dire, sarà la fiera del tartufo, tranne che decisamente meno seria e con molti meno funghi, ecco. Ok, quindi però nello specifico parliamo, insomma, di riviste, case editrice per fanzine, scarabocchi, fumetti, insomma una roba del genere, come avete scritto anche voi nella chiamata durante il festival. Esatto, qualunque forma di autoproduzione che stampata, riviste, fanzine, fumetti, stampe, qualunque cosa, non le borsette e i saponi, ecco. Questo di sicuro. Okay. Va bene. L'iniziativa si terrà, correggimi se sbaglio, al Boccaggio il 14 e il 15 13 maggio. E il 14 maggio. Ah, ok, il 13 e il 14 maggio, perfetto. E per scrivere, per partecipare, c'è l'email grane@bruttocarattere.org e c'è anche il blog, giusto? Giustissimo. Okay, adesso con l'avvicinarsi del festival presenteremo pubblicamente il programma di questi due giorni, che sarà un programma molto pieno e molto denso, e speriamo che non ci siano problemi di spostamento. La chiamata è ovviamente a livello nazionale o, se vogliono, anche internazionale, noi saremo soltanto 10. Ok, perfetto, va bene. Quindi per qualsiasi info invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a scrivere alla mail grane@bruttocarattere.org oppure a seguire il blog grane.noblogs.org. Va bene, grazie, ti ringraziamo. Grazie, scusa della chiamata, dell'epic fail di prima e di questa chiamata con rumori di sottofondo particolarmente strani. Grazie a voi. Tra l'altro fai parte del collettivo. No, se fai parte del collettivo Mortazza non potevamo aspettarci altro, insomma. Va bene, mi grazie. Mi raccomando, mille. Supportate il collettivo Mortazza, ragazzi. Perfetto, supportiamo tutti e tutte il collettivo Mortazza. Okay, ringraziamo il compagno per la disponibilità e ora ci sentiamo i Colpos con Tutto Fermo. È il pezzo che va ad introdurre un po' la presentazione del disco Pandemic Punks che faremo con i ragazzi, che chiameremo appunto dopo averci sentito il primo pezzo che apre il CD, Tutto Fermo.